un modo giusto un appendice, diciamo, al seminario, e non credo che questo sia fuori luogo. Anche la relazione culturale, che apparirebbe al primo ordine del giorno, in realtà, secondo me, è costituita dal seminario stesso. Io penso che la discussione che si è svolta in questi giorni, definiti in vari modi, tra cui ieri quello di spogliarello ideologico, ecco, sia in realtà proprio la vera relazione culturale, cioè rappresenti la faccia che noi adesso abbiamo sostanzialmente. Quindi su questo piano mi pare che ci sia poco da aggiungere, tantomeno posso aggiungere qualcosa io, nel senso che sono stato in qualche modo cooptato e inglobato nell'Europa delle corti un anno fa, e in quest'anno, così mi pare di essere servito poco, ma di aver semplicemente un po' cercato di entrare dentro e di capire appunto il significato che può avere questo nostro stare insieme. Se è lecito e forse in ogni caso è necessario sintetizzare il problema più grosso che abbiamo davanti, mi pare sia quello su cui non credo che le posizioni siano divergenti, in ogni modo la discussione può appurare questo, della ricerca di un equilibrio tra, diciamo, una posizione di tipo recettivo verso le occasioni culturali in dialetti ma anche in latino, legato alla novellistica precedente, espressione della borghesia, e l'altro aulico, cortigiano, anazionale, che però è portato sugli scudi dai retori. Ora, questa è una posizione proprio estremamente, se si vuole, proprio legata a questa storiografia risorgimentale, cioè l'idea in sostanza di una lunga tradizione che risale dai comuni, che è nazional-popolare, che ha questi ceti soprattutto municipali che la difendono, mentre l'altra tradizione è quella aulica, cortigiana, anazionale e quindi retorica e quindi molle, priva di identità, non risorgimentale, eccetera eccetera. Questa ipotesi, non dico naturalmente che tutto Gramsci sia qui, dico semplicemente che l'ipotesi del Santissiano, ereditata appunto dalla riflessione risorgimentale sulla questione, ha ancora una sua vitalità ben oltre, anche in autori che, come abbiamo ora sentito da Cesare, propongono anche una propria teoria. Tuttavia certi elementi sono ormai acquisiti e difficili da mettere in discussione. A mio avviso è ancora più importante le ultime tre righe con le quali Gramsci chiude il discorso sul risorgimento, pure discorso lucidissimo, critico nei confronti della posizione crociana, estremamente ricco di ipotesi, e tuttavia erede, come ancora una volta mostrato Cantimori, di questa posizione che è poi la posizione, insomma, degli intellettuali che attraverso la riforma si sono affrancati, questa tradizione, insomma, di privilegio dell'intellettuale nei confronti, è vero, della come dire, della storia cinquecentesca come storia in sostanza da una parte di corti e dall'altra di controriforme. Dice nelle ultime parti, che sono molto critiche nei confronti delle interpretazioni crociane, l'ultimo paragrafo è Croce, la tradizione storiografica italiana, critica la posizione di disimpegno che sta venendo fuori rispetto al risorgimento e osserva questa posizione di disimpegno giustifica rispetto agli intellettuali il non impegnarsi interamente nell'atto storico reale ed è indubbiamente comoda. È la posizione di Erasmo nei confronti della riforma. Cioè, un saggio che è dedicato al risorgimento italiano si chiude con il preconcetto, è vero, della storiografia medio ottocentesca sulla identità della Rinascenza e del risorgimento e sulla espunzione di tutte quelle aree che non avevano partecipato. In fondo, qui è una prova ex negativo che l'identità forte, risorgimento, rinascimento, vale ancora in Gramsci quando deve dire qualcuno che si disimpegna tra gli intellettuali contemporanei, richiama una posizione di chi non si è impegnato nella riforma, cioè appunto Erasmo. Allora, a questo punto direi che varrebbe la pena di citare direttamente Cantimori quando osserva in un saggio che a mio avviso è tra i più lucidi sulla questione del Rinascimento, proprio nel saggio De Santis e il Rinascimento, osserverà appunto che a volerci esprimere con qualche proprietà di termini, è vero, non si può parlare di un concetto del Rinascimento in De Santis, proprio perché l'unico termine che vige è come terminologia, non c'è in De Santis la parola Rinascimento, è questa linea risorgimentale, cioè questa tradizione comunale, evidentemente vige nel Carducci, eccetera, eccetera, ma che permette di evacuare l'altro tipo di realtà, e osserverà a questo riguardo nelle pagine che concludono il 500 e aprono la trattazione del 600 e del 700, quella esitazione, quella inquietudine sembra pacificata. Nella serie Machiavelli-Sarpi possiamo dire che il Machiavelli si incontra, per conservare la formula de Santisiana, davvero con Lutero. Ma, a dire il vero, non sotto l'insegna del Rinascimento o della Riforma, ma della cultura moderna o civiltà moderna, di un rinnovamento che comprendeva dunque in sé la Riforma. Questa posizione, questa lettura del De Santis data da Cantimori, a me sembra che possa darci veramente molti spunti per la nostra anche lettura della Corte. Vale a dire che risorgimento, lettura attraverso il risorgimento di una rinascenza che è innanzitutto comunale, perciò di individualità engagée, riformate, municipali e soprattutto fiorentine, trova uno sviluppo storiografico nei lavori che, soprattutto negli anni dal 27 al 35, è vero, vengono dedicati al Rinascimento italiano anche fuori d'Italia. A me pare significativo che il lavoro di Cassirer del 27, cioè Individuo e Cosmo nella filosofia del Rinascimento, sia per l'appunto tutto dedicato a una prospettiva in sostanza fiorentina, non soltanto perché, come egli dice, la filosofia li nasce, ma perché attraverso lo studio della filosofia del Rinascimento si studia hegelianamente tutto quanto l'individuo, tutto quanto una civiltà, e quindi è molto comodo studiare in fondo il Rinascimento attraverso una prospettiva fiorentina della filosofia fiorentina. A me pare importante notare che questo libro è dedicato a Warburg, anche uno dei primi prodotti della scuola warburgiana, e anche qui statisticamente non sarebbe inutile osservare come i primi lavori della scuola warburgiana siano dedicati essenzialmente anche qui a un rinascimento che ha in Firenze, è vero, il proprio centro. A questo riguardo vorrei dire anche che non sono del tutto, come dire, tranquillizzato neanche dalle prospettive che hanno cercato di leggere l'uomo del Rinascimento in una prospettiva, diciamo, in qualche modo marxiana, perché in verità anche qui, come fa da un lato Agnès Heller e l'uomo del Rinascimento, d'altro lato Bloch, la filosofia della Renaissance, il richiamo fondamentale per spiegare questa società in crisi è quello di dire non è stato osservato che il Rinascimento ha in sé la nascita della filosofia borghese, è l'introduzione di Bloch alla filosofia della Renaissance, la nascita insomma di una coscienza borghese, ma per questo modo appena il discorso di identificazione tra Rinascimento e coscienza borghese passa dal terreno filosofico a quello storiografico o a quello più propriamente letterario, immediatamente borghesia, per la situazione italiana, voglio dire non in contesto europeo ma per la situazione italiana, vuol dire ancora una volta richiamo alla realtà dei comuni, cioè c'è un decalage tra la prospettiva filosofica e storiografica di gente, appunto, di studiosi come Bloch, Agnès Heller, eccetera, una volta che la riferiscono al contesto europeo, e la loro applicazione in sede italiana, perché quando si dice appunto che la crisi del Rinascimento è in realtà l'emergenza di una coscienza borghese, come detto proprio nel capitolo iniziale del libro di Bloch, evidentemente applicato in sede italiana riporta una realtà che è tutt'altra, cioè appunto questa lunga durata insomma della poi pensiamo ai topoi letterali a questo riguardo, dell'identificazione civiltà comunale, Boccaccio, nascita della borghesia, mercantilismo fiorentino, eccetera, eccetera. È curioso, per esempio, che nel libro della questa allieva, è vero, di Lukács, che è appunto il libro dell'Heller, ci siano pagine come queste. Per iniziare con un'analogia che non è solo formale, si può dire che lo sviluppo di Firenze sta a quello di Venezia come nell'antichità lo sviluppo attico sta a quello ionico, cioè una teorizzazione quasi atemporale dello sviluppo della polis, è vero, e con tutta la storiografia che sta dietro questa teoria della polis. E poi lascio cadere le pagine sui tiranni, è vero. Sarebbe interessante vedere come cerca di recuperare la Haller a questa sua prospettiva anche la storiografia burckhardtiana. Vorrei anche dire di più che, a mio avviso, il fatto che tutte queste che per esempio, ecco, il libro di Cassirer, che è stato tradotto immediatamente in Italia nel 1935, in anni in cui si traduceva, è vero, non si traducevano altre cose, ha anche una, a mio avviso, una spiegazione, e cioè che fa comodo all'ideologia fascista insistere molto sul concetto di individualità, come giunge in Italia, e l'ha mostrato molto bene Ferguson nel Rinascimento, nella critica storica, attraverso la lettura che ne dà, per esempio, partendo sempre dalla lezione burckhardtiana, che ne dà Nietzsche. Qui, in un passo nicciano che è molto bello, si incrociano proprio in questa rivalutazione dell'individuo come facitore di se stesso tutta la tradizione, come dire, negativa che ha l'Ottocento sulla corte, con una specie di riproposta machiavelliana in termini superoministici, no? Il Valentino diventa una specie di superuomo. Vi leggo solo questo passo, che è assolutamente rivelativo e che ben ha fatto Ferguson a citare come sviluppo possibile, è vero, di questo premiare troppo la storia della individualità. Un criminale è in ogni caso un uomo che pone a repentaglio la sua vita, il suo onore e la sua libertà. Per questo un uomo coraggioso. Il fatto che la nostra società il criminale sia un animale malnutrito e malcresciuto significa soltanto la condanna del nostro sistema. Ai tempi del Rinascimento, il criminale era un esemplare superbo della stirpe umana e uno che si procurava per sé solo la sua virtù. Qui la citazione machiavelliana è assolutamente trasparente. Virtù da intendere nel senso rinascimentale, e cioè virtus esente da corrosivi moralistici. È un passo, direi, di una straordinaria ricchezza, e che permette, recuperando più tardi la lezione di Michelet, e qui c'è una bella, anche se un po' troppo prodomomeo, ovvero un bel medaglione di Lucien Febvre in studi su riforma e rinascimento, a proposito, a suo avviso, della nascita del termine rinascimento presso Michelet. Tuttavia, il modo stesso con cui Febvre conduce questa paternità di rinascimento sulle spalle di Michelet è una paternità che poi può servire, come ha osservato Ferguson, anche a Nietzsche. Dice infatti che nella idea di Michelet il rinascimento fu una negazione del Medioevo, rottura della tradizione, uscì dal nulla, tabula rasa, fu un miracolo. E poi qui c'è la spia anche linguistica di questa sorta di abbaglio, è vero, per eccesso d'amore, è vero, di Febvre a proposito di Michelet. Michelet a suo modo lo disse magnificamente, due punti, e cita, lo slancio eroico di un'immensa volontà. E sembrerebbero parole non di Michelet, è vero, ma di contesti italiani ben più prossimi. Cioè, cosa intendo dire con questo? Che la lettura, allora, in parallelo, è vero, una linea storiografica che esca un po' dall'Italia, veda cosa succede in Europa. Quindi questa prospettiva tracciata da Febvre per un lato e da Ferguson dall'altro, Michelet, Gobineau, Nietzsche, ci fa anche capire come mai tutta una serie di discussioni negli anni 30 sul Rinascimento italiano siano discussioni in quali l'individuo viene certamente premiato, ma viene premiato in termini molto, a mio avviso, molto dubitosi, dei quali bisogna diffidare. E questo premio era già in qualche modo visibile in un libro di Onofri, che è del 27, pubblicato dalla Terza, il cui titolo è Nuovo Rinascimento come scienza dell'io. Ed esce appunto nella collana teosofica, eccetera, ora ristampata appunto dalla Terza. Ora, questa, lettura in qualche modo fascista dell'individuo superuomo porta anche degli spostamenti significativi. Per esempio, è di quegli anni una specie di enorme pompaggio di Michelangelo nella cultura storica e storico-artistica, ma proprio perché Michelangelo corrisponde a queste idee titaniche, è vero, che vengono da una lettura, da una degenerazione fascista della lettura risorgimentale dell'individuo, libertà repubblicane, Firenze, Machiavelli, eccetera, eccetera. Ora, io credo, e con questo arrivo alla conclusione, avendo molte cose già detto, eccetera, che non questa linea serve alle nostre ipotesi storiografiche sulla corte, bensì, mi spiace naturalmente dirlo, perché c'è gran parte della storia e della storiografia otto-novecentesca, e devo dire, onestamente, anche quella che dalla parte degli intellettuali si è meglio difesa dal fascismo, no? Ma, diciamo così, privilegiando talmente la linea della storia degli intellettuali come storia dell'individualità all'interno di libertà municipali, che alla fine ha messo tra parentesi proprio tutta quell'altra parte che ora Cesare definiva come la nascita della coscienza della formazione dello Stato. A questo riguardo, modestamente, io sarei tra quelli che, anche se una specie di ricorso storico, ripropongono con un'attenzione che è maturata negli studi, è vero, negli studi recenti, quindi senza più, spero, pericoli di abbagliarci, all'opera di Burckhardt, perché Burckhardt ha intanto la coscienza di partire dallo Stato e non dall'individuo. Certo, per Burckhardt lo Stato è opera d'arte, ma con significative varianti rispetto anche alla lettura che darà di Burckhardt Chabot. Cioè, Burckhardt non è quel teorico che identifica, a leggere bene le sue pagine, immediatamente Stato e opera del principe, ma corregge, è vero, corregge lasciando, è vero, da parte questa centralità fiorentina e nelle primissime pagine richiamando Ferrara, dove, per l'appunto, ed è una parte della nostra storia, la storia del principe, anche a forza di annessioni statali, a forza di creazione di consenso, una storia del proprio popolo. Ed è a proposito di Ferrara che il Burckhardt dirà che la storia, insomma, dello Stato non è soltanto storia del principe, ma storia del consenso, che è una cosa molto bella, che metterebbe in crisi anche una identificazione troppo rapida tra corte e nobiltà, come hanno tentato studi, è vero, recenti, anche tradotti da noi. Burckhardt già allora diceva: i principi d'Italia, e appena citato il caso però ferrarese, dobbiamo stare attenti ogni volta a quale corte ci si riferisce quando si propongono questi modelli, i principi d'Italia non si limitano, come i loro contemporanei del nord, a trattare esclusivamente con una nobiltà la quale si crede l'unica classe degna di considerazione a questo mondo, e trascina anche il principe in questo errore. In Italia il regnante può e deve conoscere ognuno, ed anche la nobiltà, sebbene ristretta in una data cerchia per privilegio della nascita, e nei rapporti sociali mira al valore personale e non di casta, come più innanzi avremo occasione di dimostrare. I sentimenti dei ferraresi verso questa casa regnante sono il più strano miscuglio, è vero, di un tacito terrore, di una devozione calcolata e riflessa, di una fedeltà e sudditanza intese in senso affatto moderno. Cioè a dire che nel momento in cui Burckhardt discute e critica il concetto di identificazione tra principe e nobiltà, tra principe, nobiltà e corte, richiama per l'appunto l'esempio ferrarese, cioè un esempio che era rimasto in parte marginale, l'opera del 1860, nella trattazione precedente, che aveva questo inviluppo da mantenere, questo inviluppo insomma repubblicano fiorentino da mantenere al centro. La seconda osservazione che vorrei fare tra, come dire, i nostri antenati, per così dire, una specie di ricerca dei nostri antenati, è anche il recupero, non è necessario, voglio dire, la riproposta, diciamo, sottolineare, ditelo come volete, insomma, non so trovare dei termini adeguati, di alcune linee, se permetti, non quelle che hai letto tu, ci cambiamo un po' le parti, delle ricerche di Chabot, il quale, per esempio, nel 1933, ha già il coraggio di ammettere in una nota che la vera identità della civiltà del Rinascimento è la Hofkultur. Dice appunto, donde il carattere aristocratico, come fu detto, della civiltà del Rinascimento. Qui naturalmente mantiene questo a priori storiografico, che non è per esempio in Burckhardt, di una pura aristocrazia, è vero, della civiltà rinascimentale. E nella nota aggiunge e corregge in senso burckhardtiano questa civiltà del Rinascimento, che è una Hofkultur, non nel senso che essa sia rimasta materialmente limitata alle corti principesche, ma nel senso che i suoi ideali richiedono per l'attuazione una élite, donde anche un ruolo possibile, è vero, riservato agli intellettuali nella attuazione di questo programma. Però dice, non è materialmente rimasta limitata alle corti principesche, ma per la sua attuazione. Comunque è sintomatico che nel 1933 ci sia già questa identificazione, è vero, tra Rinascimento e Hofkultur. Ma a me pare ancora più importante quello che dirà poco più tardi a proposito dei caratteri distintivi del nuovo stato rinascimentale, che sono a mio avviso una delle linee di forza del lavoro portato avanti dal Centro Studi. Cioè, egli dice, quando si deve scomporre il fenomeno, diciamo così, principe-corte, occorre vedere sotto di esso, che era già insomma nella relazione ieri di recuperati, poi nel dibattito che è seguito all'intervento di Prodi, bisogna scomporre dentro e dietro di esso fatti nuovi emergenti che creano uno stato moderno, e Chabot ne ricorda due in particolare, la burocrazia e la centralizzazione. E a mio avviso è fascinoso il fatto che, per parlare della centralizzazione, Chabot nella versione francese alla conferenza Esiste uno stato del Rinascimento dica, variando sul testo italiano, dica, il ya, e forse anche come omaggio ai francesi, ma insomma è bene citarlo, il ya exactement un siècle Alexis de Tocqueville observé, e poi cita, je veux bien que la centralisation administrative soit une belle conquête, je consens à ce que l'Europe nous l'envie, mais je soutiens que ce n'est point une conquête de la révolution, c'est au contraire un produit de l'ancien régime, et j'ajouterai, la seule portion de la constitution politique de l'ancien régime qui est survécu à la révolution. Una pagina di straordinaria bellezza, e che io credo a buon titolo, è vero, Chabot fa propria da Tocqueville. Cioè, insomma, l'ancien régime non muore con la rivoluzione, anzi ciò che dà la rivoluzione è precisamente questa centralizzazione amministrativa, l'esempio è francese, ma insomma un pochino si può anche vedere per quella italiana, che noi abbiamo a tratti visto dalle vostre relazioni emergere anche per l'organizzazione delle corti italiane. Ultimo elemento a questo riguardo e qualche precisazione. E con questo chiudo. Il nostro lavoro, evidentemente, tenendo grosso modo questi due schemi, ha come dire, ha avuto delle aporie e delle caratteristiche. È chiaro che se partiamo da queste ipotesi, la novità del lavoro sulle corti sarà precisamente quella di continuare, a mio avviso, i lavori che sono stati fatti sul versante storico e storico-economico, proprio per vedere come dietro questa immagine di corte comincia a nascere una realtà altra che quella richiamata da Chabot e nella citazione di Tocqueville, ma anche, se consentite, il fatto che la corte in questo nuovo formato progressivo aggregarsi di funzioni differenti continua a conservare il ruolo indicato da Burckhardt proprio con il riferimento a Ferrara di esposizione del consenso, di creazione del consenso, e quindi un ruolo specifico che invece il De Santis aveva, come dire, negato. Tutte quelle forme del teatro, della musica, dell'effimero, eccetera, dei cicli pittorici, così ben visibile a Ferrara anche nella storia, come dire, dello spazio, lo scorso anno vista, e che servono precisamente a questa creazione del consenso, questo superamento attraverso la corte dell'identità principe nobiltà per la cattura appunto di un consenso esterno al puro rispecchiamento di ceti. Vorrei dire che a questo riguardo, naturalmente sul versante letterario è ovvio, noi abbiamo una specie di storia che intanto un po' per volta si è pacificata, ma ricordo almeno il primo convegno farnesiano sembrava di perché era impossibile, ma mi pare che questa prospettiva ci aiuti a conciliare. Abbiamo avuto una specie di scissione tra quello che sembrava, come dire, così costitutivamente solido, che era l'analisi del bilancio, eccetera, e l'altro completamente sfasciato, e che era invece l'analisi dell'effimero. A me sembra che in questa prospettiva, se si vuole sciabodiano burcardiana, è vero, dell'analisi di corte, sia possibile tenere rigorosamente insieme le due cose come due momenti necessari, almeno nell'arco di studio delle corti di cui noi ci occupiamo, e tutto sommato a ciò conforta anche il sempre canonico, è vero, discorso sull'umanesimo italiano di Dionisotti, il quale sarebbe magari alieno da prospettive nostre, ma già allora aveva tutta la chiarezza di dire che, e con questo chiudo così con un omaggio piemontese come si deve in questi casi, l'insuccesso politico delle due congiure, si riferisce ancora una volta alla guerra di Ferrara, e la gravità della crisi che ad esse si lega, crisi che ha nella guerra di Ferrara il suo fuoco, segnano anche una decisiva svolta intorno al 1480 nella storia della cultura e della letteratura italiana. Si afferma quella data come regola che per tutto si impone anche agli spiriti più forti e pensosi, il fenomeno della letteratura cortigiana. In quel discorso sull'umanesimo italiano Dionisotti ha avuto il coraggio, a mio avviso capitale, un po' fondante anche per noi, di travalicare il discorso sul Machiavelli e di dire che la letteratura cortigiana si afferma già come anche agli spiriti più forti sin dal 1480, e mi pare così di avere un antenato in più da offrire alla nostra parte.